i primi resoconti della giornata di ieri, quasi paradossale, insomma, gli articoli di giornale che raccontano di scene apocalittiche che, insomma, non sono avvenute innanzitutto, insomma, bisogna dirlo con una certa nettezza in un certo senso. È stata una giornata, diciamo così, abbastanza lunga perché ovviamente si arrivava dalla giornata precedente, che era il sabato notte, in cui, diciamo così, il confronto tra i manifestanti e i cancelli che circondano la centrale elettrica, dove è disposto un presidio, il presidio delle forze dell'ordine, e in prossimità del quale c'è, cioè, ovviamente l'11° campeggio di lotta, è durata fino a notte fonda, insomma. Quindi la domenica è stata, tra l'altro, una giornata comunque piena di iniziative, che però è iniziata molto molto molto tardi. Dunque, innanzitutto il campeggio ci stanno tantissimi compagni e compagne provenienti da tutta Italia, e comunque c'è anche una partecipazione, diciamo così, popolare, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, insomma, quando oltre ai compagni e le compagne arrivano anche le persone, insomma, dai paesi vicino, dai comitati no-TAV, a portare materiale, allestire banchetti e via discorrendo. Insomma, l'iniziativa di ieri è stata abbastanza intensa, perché è cominciata subito dopo pranzo con il consueto rito delle battiture, insomma, che consiste nel fare casino sui guardrail, ai cancelli, ed è una pratica che va da tantissimo tempo, almeno da queste parti, utilizzata proprio come strumento di lotta, diciamo così, nei confronti delle forze dell'ordine, a partire soprattutto dai momenti dello sgombero del presidio della Maddalena, insomma. Ed è iniziata, ha visto la partecipazione di centinaia, centinaia di persone, insomma, centinaia di persone assiepate attorno a questi cancelli in prossimità del campeggio. Successivamente c'è stata l'iniziativa molto pubblicizzata degli alpini, decine e decine, insomma, di ex alpini, insomma, si sono avvicinati nei pressi del cancello, cominciando un po' a inveire contro i mercenari reduci dall'Afghanistan, insomma, che sono stati spediti, diciamo così, a presidiare tutte le zone circostanti ai presidi militari e a quello che è il cosiddetto non cantiere, insomma. E una grandissima polemica, soprattutto, che oggi è apparsa anche su molti giornali, anche con l'Associazione Nazionale degli Alpini. Un'iniziativa che ha teso un po' a denunciare il fatto che comunque lo spirito del corpo, almeno così dicevano i manifestanti, lo spirito del corpo è sempre stato quello improntato alla solidarietà, all'intervento, al legame con le popolazioni civili, e soprattutto in prossimità o a ridosso di disastri, soprattutto di carattere ambientale. Quindi uno spirito completamente diverso da quello di chi viene stipendiato per andare a fare le guerre in Afghanistan, in Kosovo, in Libano, e che poi oggi viene mandato qui contro la popolazione valsusina, insomma. Ed è questo un po' il concetto di questo intervento, che, appunto, al quale hanno partecipato decine e decine di persone che hanno fatto il militare negli alpini. Si sono anche arrampicati sui cancelli, insomma, hanno issato i loro cartelli, e poi a un certo punto hanno iniziato una marcia lungo alcuni sentieri che ha raggiunto la Maddalena, che si trova, diciamo così, dal versante opposto, circa 200 persone, compresi tantissimi manifestanti. E lì, arrivati in prossimità dei nuovi cancelli, praticamente è iniziata anche lì la battitura, gli interventi nei confronti delle forze dell'ordine. Questa è una cosa un po' particolare, perché, tra l'altro, siamo arrivati proprio in prossimità di un parco archeologico abbastanza importante per la zona, e che è stato al centro delle Sì. polemiche, perché in questa campagna denigratoria nei confronti del movimento No-TAV e delle mobilitazioni che ci sono state in questa settimana, di fatto le stato detto, insomma, che fossero stati manifestanti a devastare praticamente questo parco archeologico importantissimo. Abbiamo potuto notare quanto invece sono state proprio le recinzioni e le barriere di cemento che l'hanno praticamente reso completamente inagibile, con un grande disastro sia per l'ambiente circostante pieno di boschi che per le strutture e le installazioni. Sono praticamente delle capanne di pietra che risalgono ai primi millenni avanti Cristo, insomma, quindi un pezzo di storia e di naturalezza abbastanza importante, completamente distrutto dalle recinzioni, insomma. Fra l'altro, sì, prego, prego. E al termine di questa marcia poi c'è stato un incontro valutazione sulle mobilitazioni di Genova, ne hanno parlato anche moltissimo i giornali, con Aidi Giuliani, c'era una grande partecipazione, soprattutto anche di persone del posto, insomma, della zona, curiose di ascoltare Aidi Giuliani, insomma, il dibattito, la discussione sulle giornate di Genova che si erano appena concluse. Nel frattempo, comunque, a ridosso di questi cancelli la pressione è andata avanti, insomma, fino a notte fonda, possiamo dire così, con questo rumore incessante delle sirene, delle battiture, a disturbare le forze dell'ordine. Poi di fatto sono venuti giù i cancelli, insomma, questa è la cosa che ha fatto un po', diciamo così, accendere gli animi tra le forze dell'ordine, che hanno cominciato a sparare di nuovo dei lacrimogeni, soprattutto con gli idranti, alle persone che erano proprio in prima fila, tra questi moltissime famiglie, anche persone anziane, tra cui tra l'altro anche molti alpini oltretutto. E lì è iniziato un confronto con le forze dell'ordine, che però ha visto per l'ennesima volta il campeggio, diciamo così, bombardato dai lacrimogeni, insomma. Quindi si è trattato di una cosa che per forza di cose è durata molto poco, e dove però c'è stata comunque una forte preoccupazione, insomma. I giornali oggi parlano in maniera, diciamo così, incredibile, questi 14 presunti feriti tra le forze dell'ordine. Oltre a tutta una serie di altre cose, perché poi ci sono in mezzo anche i bambini che vengono utilizzati come testa di ponte, gli ex terroristi. Abbiamo visto da lontano questo Massimo Numa, il giornalista della stampa, che praticamente segue, l'abbiamo visto perché era al di là delle recinzioni, proprio vicino insomma alle recinzioni, di fatto ha seguito tutte le fasi della manifestazione dietro le forze dell'ordine, e poi ha costruito questo resoconto completamente assurdo, falsissimo, dalla prima all'ultima riga. Innanzitutto a vista, insomma, risulta che le uniche due agenti che si sono fatti un pochino male sono quelli che sono scivolati da un paio di sentieri a vista, insomma, non risulta che ci siano stati altri tipi di di contusioni, ma non c'è stato neanche nessun tipo di contatto, nel senso che le forze dell'ordine comunque si guardano bene dal venire in contatto con i manifestanti, si preoccupano solamente di sparare con i lacrimogeni e gli idranti, quindi è assolutamente impossibile. I cancelli sono venuti giù perché dall'inizio praticamente un po' tutti, insomma, dai bambini ai vecchi, hanno cominciato a scavare sotto al cemento che teneva queste reti, e a un certo punto queste reti sono crollate dopo 8 ore, insomma, di scavi, diciamo così. Ma è una piccola... Pronto? Un attimo. Pronto? Sì, eccomi. Ci sei, Sandro? Che ero in un posto dove non potevo parlare, e sono venute giù, diciamo così, da sole in un certo senso, però non ci risulta. C'è un paio di manifestanti, insomma, che sono rimasti leggermente feriti dallo sparo di lacrimogeni. Ovviamente i maggiori ad essere preoccupati da questa situazione erano insomma soprattutto le famiglie con i bambini un pochino più piccoli, insomma. Ecco, va registrata questa enorme partecipazione popolare, e questa è l'unica, è l'elemento determinante contro il quale tra l'altro si sta scatenando tutta questa campagna falsa e denigratoria. Anche l'articolo della Repubblica di oggi insomma raccontava cose assolutamente non vere, e di assolutamente non vere, insomma sono racconti riportati così dalle linee delle forze dell'ordine, insomma. Sì, anche se poi a malincuore pure loro devono ammettere che il movimento è un movimento popolare, ecco, non ci stanno i vili estremisti venuti da fuori. Un movimento fortissimo, non c'è nessun tipo di frizione rispetto anche alle pratiche di lotta messe in piedi. C'è sicuramente un ragionamento che poi è stato sviluppato all'interno dell'assemblea notturna di ieri, dove di fatto questa forma di pressione nei confronti del cancello, di cancelli in prossimità del campeggio e della centrale elettrica, di fatto è terminato ieri, insomma, perché comunque gli obiettivi dei comitati sono i cantieri della Maddalena, cantieri che probabilmente dalla settimana prossima cominceranno ad allargare le aree destinate al cantiere, anzi le aree destinate al fortino, perché di cantiere non si sta parlando, insomma. Si sta parlando di fortificazione in previsione dell'apertura dei lavori, eccetera, insomma. Ci sarà un nuovo allargamento, tra l'altro in un'area boschiva, che era stata un po' recuperata nel corso degli ultimi due anni dai manifestanti, grazie all'impegno insomma di tanta gente, insomma. Quindi nuove recinzioni, allargamento, e quindi ieri al termine dell'assemblea è rimasta come elemento centrale questo della Maddalena, cioè rallentare i lavori, tirare giù le recinzioni, impedire che comunque il fortino si allarghi ulteriormente.